La prima era seduta. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Trovai la signorina Havisham ed Estella nella stanza della toeletta. La prima era seduta su un piccolo divano accanto al fuoco. Estella sopra un cuscino ai suoi piedi. Estella lavorava a maglia e la signorina la stava a guardare. Ambedue levarono gli occhi quando entrai e ambedue si accorsero di una trasformazione in me. Lo dedussi dallo sguardo che si scambiarono. «Che buon vento ti porta, Pip!» «Signorina Havisham», dissi, «sono andato ieri a Richmond per parlare con Estella. Ho trovato che un buon vento l'aveva portata qui e ci sono venuto anch'io». La signorina Havisham mi fece cenno per la terza o quarta volta di sedermi. Prese la seggiola accanto alla toeletta che spesso avevo vista occupata da lei e che quel giorno mi sembrò il posto più adatto con tutte quelle rovine ai miei piedi e intorno a me. Ciò che dovevo dire a Estella, signorina Havisham, lo dirò davanti a voi, subito, tra pochi minuti. La cosa non vi sorprenderà, non vi dispiacerà. Sono infelice. Proprio quanto potete aver mai desiderato che io lo fossi. La signorina Havisham continuava a guardarmi fissamente. Potevo scorgere nel moto delle dita di Estella, mentre continuavano il lavoro, che la ascoltava con attenzione, ma non alzò gli occhi. Ho scoperto chi è il mio benefattore. Non è una scoperta felice. E probabilmente non potrà favorire nella mia reputazione, nella mia situazione sociale o economica. Nulla. Vi sono delle ragioni per cui non posso dire altro che questo. È un segreto, non mio. Per un poco rimasi in silenzio guardando Estella e domandandomi come continuare. La signorina Havisham ripeté allora: «È un segreto non tuo. E con ciò?» «Quando mi faceste venire qui, signorina, da quel villaggio sperduto che vorrei non aver mai lasciato, immagino che ci venni come avrebbe potuto venirci qualsiasi altro ragazzo, come una specie di servitore, per soddisfare un bisogno o un capriccio ed esserne compensato, no?» «Certo, Pip», rispose la signorina Havisham assentendo, «proprio così». «E il signor Jaggers?» «Il signor Jaggers?» Ella mi interruppe con voce ferma. «Non ha niente a che vedere con questo e non ne seppe nulla. Il fatto che egli sia il mio legale, anche il legale del tuo benefattore, è una pura coincidenza. Egli adempie lo stesso incarico per infinite altre persone e quindi tale coincidenza si può verificare facilmente. Ad ogni modo si verificò senza che nessuno l'avesse voluto». Chiunque avrebbe potuto scorgere sul viso stravolto che almeno finora non cercava di sopprimere o di nascondere nulla. Ma quando io caddi nell'equivoco in cui rimasi così a lungo, però mi incoraggiaste a rimanervi. «Sì», e la sentì, «ti ho incoraggiato». «È stata una buona azione». «Che sono mai io, in nome di Dio, da dover essere buona?» Era stata una ben meschina lagnanza da parte mia e mi era sfuggita senza volerlo. Glielo dissi, mentre ella rimuginava sul suo accesso di collera. «Beh, e che altro?» disse. «Sono stato messo in una famiglia di vostri parenti, signorina, e ho vissuto sempre fra loro da quando sono andato a Londra. So che essi hanno coltivato in buona fede la mia stessa illusione, e sarei falso e abietto se non vi dicessi la cosa vi piaccia o no, e siate o no disposta a credermi, che voi fate veramente torto sia al signor Matthew Pocket sia al suo figlio Herbert, immaginandoli men che generosi, retti, incapaci di qualsiasi intrigo o bassezza». «Sono amici tuoi», disse la signorina Havisham. «Sono diventati amici miei, pur credendo che io li avessi soppiantati, a differenza di Sarah Pocket, della signorina Georgiana e della signora Camilla. Averli presentati in contrasto con il resto della famiglia, me ne accorsi con piacere, parve metterli sotto una luce migliore ai suoi occhi. Mi rivolse uno sguardo penetrante, poi mi domandò in tono benevolo: «Che cosa vuoi per loro?» «Soltanto che non li confondiate con gli altri. Potranno essere della stessa famiglia, ma credetemi, non hanno lo stesso carattere.» Sempre fissandomi con uno sguardo penetrante, la signorina Havisham ripeté: «Che cosa vuoi per loro?» «Non sono così furbo, vedete», risposi sentendomi arrossire, «da riuscire a nascondervi, anche se lo desiderassi, che voglio qualcosa. Signorina Havisham, se potete disporre di una somma di denaro per rendere al mio amico Herbert un servigio che sarà decisivo per la sua vita, ma che, date le circostanze, deve essergli tenuto nascosto, ve ne mostrerò il modo.» «E perché dovrebbe essergli tenuto nascosto?» ella chiese poggiando le mani sul suo bastone, per potermi considerare più attentamente. «Perché, dissi io, ho cominciato io stesso a dargli questo aiuto più di 2 anni fa, a sua insaputa, e non voglio che venga a saperlo. Io non sono più in grado di continuare a darglielo. Non posso spiegarvi il perché. Fa parte di quel segreto non mio.» Gradatamente ella mi tolse gli occhi di dosso e li rivolse al fuoco. Rimase a guardarlo per un tempo che, nel silenzio e la luce delle candele che si consumavano lentamente, sembrò molto lungo. Poi si riscosse per la caduta di qualche tizzone e mi guardò di nuovo, al principio vacuamente, poi con un'attenzione sempre più intensa. Intanto Estella aveva continuato a sferruzzare. Quando la signorina Havisham ebbe concentrato su di me la sua attenzione, riprese a dire, come se non vi fosse stata alcuna pausa nella nostra conversazione: «E che altro?» «Estella», dissi volgendomi verso di lei e cercando di controllare la mia voce tremante, «tu sai che ti amo. Sai che ti amo da tanto tempo, e teneramente.» Ella alzò gli occhi su di me nel sentirsi apostrofare in tal modo, ma le sue dita continuarono a lavorare in fretta e il suo sguardo era impassibile. La signorina Havisham girava gli occhi da me a lei e da lei a me. «Te l'avrei detto prima, non fosse stato quel lungo equivoco che mi indusse a sperare che la signorina Havisham ci avesse destinati l'uno all'altra. Finché pensavo che tu non potevi opporti, per così dire, mi sono astenuto dal dirtelo. Ma adesso devo dirtelo.» Conservando il suo atteggiamento impassibile mentre le dita continuavano a lavorare febbrilmente, Estella scosse il capo. «Lo so», dissi in risposta a quel gesto. «Lo so. Non ho nessuna speranza di chiamarti un giorno mia, Estella. Non so che cosa sarà di me tra breve tempo, in quale miseria vi potrò trovare o dove potrò andare. Eppure ti amo, ti ho amato da quando ti ho visto per la prima volta in questa casa.» Guardandomi con perfetta impassibilità, le dita sempre attive, ella scosse il capo di nuovo. «Sarebbe stato crudele, orribilmente crudele da parte della signorina Havisham prendersi gioco della sensibilità di un povero ragazzo e torturarmi in tutti questi anni con una vana speranza, con una meta inesistente, se avesse riflettuto sulla gravità di quanto faceva. Ma penso che non l'abbia fatto. Penso che nella sua propria sofferenza ella non abbia pensato alla mia, Estella.» Vidi la signorina Havisham mettersi una mano sul cuore mentre continuava a guardare ora Estella, ora me. «A quanto pare», disse Estella calmissima, «vi sono dei sentimenti, delle fantasie, non so come chiamarle, che io non sono in grado di comprendere. Quando tu dici che mi ami, so cosa vuoi dire quanto al significato delle parole, ma niente di più. Nel mio cuore non c'è alcuna rispondenza. non si risveglia nulla in esso. Non mi importa affatto di quello che tu dici. Ho cercato di avvertirtene. Non è vero, forse? Sì, riconobbi nel tono più infelice. Sì? Ma tu non hai voluto saperne del mio avvertimento, perché credevi che io non dicessi sul serio. Non è forse così? Credevo e speravo che tu non dicessi sul serio. Sei così giovane, inesperta, e sei così bella, Estella. Non è certamente una cosa naturale. È naturale in me? E la replicò. E poi aggiunse, calcando le parole, è nel carattere che si è formato in me. Faccio una grande differenza fra te e tutti gli altri quando ti parlo così. Non posso fare di più. È vero che Bentley Drummond è qui in città e ti corteggia? È verissimo, rispose con un'indifferenza che indicava un disprezzo completo. Che tu lo incoraggi e vai a fare delle passeggiate a cavallo con lui, che oggi stesso pranzerai con lui. Parve un poco sorpresa che io lo sapessi, ma di nuovo rispose: verissimo. Non puoi amarlo, Estella. Per la prima volta le sue dita si fermarono, mentre ella ribatteva piuttosto offesa. Non te lo fosse detto? Credi ancora che io non intenda veramente ciò che dico? Non lo sposeresti mai, vero, Estella? E la guardò la signorina Havisham e rifletté per un attimo, il lavoro fra le mani. Poi disse, perché non dirti la verità? Sto per sposarlo. Mi nascosi il volto fra le mani. Quando risollevai il capo, il viso della signorina Havisham aveva qualcosa di così spettrale da impressionare persino me, nella mia angoscia appassionata. Estella, mia cara, carissima Estella, non lasciare che la signorina Havisham ti spinga a questo passo fatale. Non ti curare mai più di me. Lo hai già fatto, lo so. Ma concedi la tua mano a un individuo più degno di Drummond. La signorina Havisham ti dà a lui in segno del massimo disprezzo e della massima offesa che possa essere fatta agli uomini di gran lunga migliori che ti ammirano e dai pochi che veramente ti amano. Tra questi pochi ve ne potrà magari essere uno che ti ami con altrettanta tenerezza di me. Prendilo e per amor tuo mi sarà più facile sopportarlo. Il mio tono serio destò in lei una specie di meraviglia che dava l'impressione di potersi tramutare in commozione, solo che le mie parole le fossero riuscite intelligibili. «Sto per sposarlo», ripetei in un tono più gentile. «Siamo già in pieni preparativi e il matrimonio avverrà presto. Perché vuoi mischiarvi e in modo così offensivo la mia madre adottiva? Lo faccio di mia spontanea volontà». È volontà tua buttarti via dandoti ad un essere bestiale. Nelle braccia di chi dovrei buttarmi? Ribatté sorridendo. Dovrei forse buttarmi nelle braccia di un uomo che si accorgerebbe più rapidamente, se ce n'è, che si accorga di simili cose, che io non provo niente per lui. Ormai è deciso. Me la caverò abbastanza bene. E così mio marito. Quanto a spingermi a quello che tu chiami un passo fatale, la signorina Havisham avrebbe voluto che io aspettassi, che non mi sposassi ancora. Ma sono stanca della vita che faccio e che ha ben poche attrattive per me e ho voglia di cambiarla. Non dire più niente. Non ci capiremo mai. Un essere così bestiale, ignobile, stupido, insistetti disperato. Non credere che io sarò un angelo per lui, disse Estella. Non lo sarò. Vieni. Eccoti la mia mano. Con questo vogliamo dirci addio, ragazzo visionario, o uomo. Oh, Estella, risposi mentre le mie lacrime amare le cadevano sulla mano. per quanto facessi di tutto per frenarle. Quando anche io rimanessi in Inghilterra e potessi continuare a vivere in mezzo agli altri a testa alta, come potrei vederti moglie di Ramon? Sciocchezze, ribatté. Ti passerai in un batter d'occhio. Mai, Estella. Fra una settimana mi avrai scacciato dalla tua mente. Dalla mia mente? Ma tu fai parte della mia esistenza, sei una parte di me stesso. Sei stata in ogni riga che io abbia mai letto, da quando venni qui per la prima volta. Quel ragazzo rozzo e volgare, di cui sin da allora hai ferito il povero cuore. Sei stata in ogni cosa che io abbia visto da allora. Sul fiume, sulla vela delle navi, nella palude, nelle nuvole, nella luce, nell'oscurità, nel vento, nei boschi, nel mare, nelle strade. Sei stata la personificazione di qualsiasi dolce fantasia che la mia mente abbia mai concepito. Le pietre, di cui sono fatti gli edifici più solidi di Londra, non sono più reali di quanto lo siano state per me. La tua presenza e il tuo influsso, ogni ora e dovunque, e sempre lo saranno. Estella, fino alla mia ultima ora, tu rimarrai una parte del mio essere. Una parte sia di quel poco di buono che vi è in me, e sia del male. Ma in questa separazione io ti associo unicamente con il bene e fedelmente ti unirò sempre al bene, perché tu mi hai fatto assai più bene che male. Per grande che sia il dolore che provo ora, Dio ti benedica. Dio ti perdoni. In quale esaltazione di infelicità io riuscissi a trarre da me tali parole spezzate, non so dire. Fu un lirico sfogo che sgorgò da me come sangue da una ferita. Avvicinai la sua mano alle mie labbra, trattenendola alcuni istanti, e la lasciai. Ma sempre da allora ricordai, e ben presto a maggior ragione, che mentre Estella mi considerava soltanto con incredulo stupore, la figura spettrale della signorina Havisham, la mano ancora posata sul cuore, sembrò riassumersi in un cupo sguardo di compassione e di rimorso. Tutto fatto, tutto finito. Tanto era stato fatto e finito, che allorché uscii dal cancello la luce del giorno mi sembrò più buia di quando ero entrato. Per un poco mi nascosi in viuzze secondarie e appartate. Poi mi avviai, deciso a percorrere a piedi tutta la strada fino a Londra. Ormai avevo ripreso il controllo di me stesso, al punto da riconoscere che non mi era possibile tornare alla locanda e vedermi Drummond, che non avrei potuto sopportare di sedermi sulla diligenza e sentirmi rivolgere la parola, che nulla avrebbe potuto farmi meglio, nelle condizioni in cui ero, che esaurirmi dalla stanchezza. Era mezzanotte passata quando attraversai il ponte di Londra, seguendo le intricate viuzze che a quell'epoca si dirigevano verso ovest, lungo la riva del fiume della contea del Middlesex. L'accesso più breve al Temple era vicinissimo al Tamigi, attraverso Whitefriars. Non mi aspettavano sino all'indomani, ma avevo le mie chiavi, e se Herbert fosse stato già a letto, avrei potuto coricarmi senza disturbarlo. Poiché ben di rado accadeva che io entrassi per il cancello di Whitefriars, dopo che il Temple era chiuso, ed ero infangato e stanchissimo, non mi offesi che il guardiano di notte mi esaminasse con molta attenzione, mentre teneva il cancello semiaperto per lasciarmi passare. Per aiutarlo a ravvisarmi gli dissi il mio nome. «Non ero ben sicuro che foste voi, signore, ma vi pareva. Ecco un biglietto. Il messaggero che lo portò vi fa dire di avere la bontà di leggerlo alla luce della mia lanterna». Assai sorpreso presi il biglietto. Era indirizzato al signor Philip Pip. E sopra l'indirizzo erano scritte le parole «Per favore, leggete qui». Lo apersi mentre il guardiano mi faceva luce con la lanterna e nella calligrafia di Wemmick lessi le parole «Non rientrare in casa». Voltate le spalle al cancello del Temple, non appena letto l'avvertimento, presi la via più breve per arrivare a Fleet Street e lì riuscii a trovare una vettura da nolo e mi feci portare agli Hammams, a Covent Garden. A quell'epoca lì si poteva trovare sempre un letto a qualsiasi ora della notte e il portiere, facendomi entrare senza indugio, accese la prima candela sottomano sopra uno scaffale e mi condusse direttamente in una camera, la prima libera sulla lista. Dopo essere rimasto sveglio per un poco, le voci straordinarie di cui formicola il silenzio incominciarono a farsi sentire. L'armadio sussurrava, il focolare sospirava, il piccolo lavabo scricchiolava e ogni tanto una corda di chitarra vibrava nel cassettone. Presso a poco, allo stesso momento, gli occhi sulla parete assunsero una nuova espressione e in ognuno di quei circoli che mi fissavano vidi scritto «Non rientrare in casa». Tutte le fantasie, tutti i rumori notturni che mi si affollavano intorno non riuscivano ad allontanare quel «non rientrare in casa» che si insinuava in qualsiasi cosa io pensassi come un dolore fisico. Non molto tempo prima avevo letto nei giornali che un signore sconosciuto era venuto una sera agli Hammams, si era coricato, si era ucciso ed era stato trovato al mattino immerso in una pozza di sangue. Mi venne in mente che gli avesse occupato proprio questa stessa camera e mi alzai dal letto per assicurarmi che non vi fossero tracce rosse in giro. Poi aprii la porta per guardare nel corridoio e rallegrarmi nella compagnia di un lume lontano, accanto al quale sapevo che dormicchiava il portiere. Ma in tutto questo tempo non feci che chiedermi perché non dovessi rientrare a casa e cosa mai fosse accaduto a casa e quando sarei tornato a casa e se Provis, il forzato, fosse al sicuro a casa. Tutte domande che occupavano con tanta intensità la mia mente da far supporre che non vi fosse più spazio per nessun altro pensiero. Persino quando pensavo a Estella, a come ci eravamo separati quel giorno, per sempre, e rievocavo tutte le circostanze della nostra separazione, gli atteggiamenti e le espressioni di lei, il movimento delle sue dita mentre lavorava a maglia, anche allora quell'avvertimento, non rientrare in casa, continuava a perseguitarmi. I merli del castello mi apparvero alle 8. Proprio in quel momento la servetta stava entrando nella fortezza con due panini caldi. Passai per la postierla, superai il ponte levatoio insieme con lei e così giunsi senza essere annunciato alla presenza di Wemmick, il quale stava preparando il tè per sé e per l'anziano. Una porta aperta offriva lo spettacolo dell'anziano a letto. «Salve, signor Pip!» disse Wemmick. «Siete tornato a casa, eh?» Sì, risposi, ma non sono entrato. Benone, disse egli fregandosi le mani. Avevo lasciato un biglietto per voi ad ognuno dei cancelli del Temple, ad ogni buon conto. Da quale siete passato? Glielo dissi. Farò il giro degli altri in giornata a distruggere i biglietti, disse Wemmick. È buona norma non lasciare mai prove scritte quando se ne può fare a meno. Perché, non si sa mai. Vi prenderò la libertà di chiedervi un favore. «Non vi farebbe nulla di arrostire questa salsiccia per l'anziano?» Risposi che sarei stato ben felice di farlo. «Allora mettetevi al vostro lavoro, Mary Ann», disse Wemmick alla servetta. «Così possiamo restare soli, vero signor Pip?» aggiunse ammiccando mentre essa scompariva. Lo ringraziai per il suo interessamento e per la sua prudenza e il nostro dialogo continuò a svolgersi a bassa voce mentre io arrostivo la salsiccia dell'anziano ed egli imburrava la tartina per l'anziano. «Ora, signor Pip, voi ed io ci comprendiamo», cominciò Wemmick. «Qui stiamo parlando a titolo privato e personale, e abbiamo già avuto dei negoziati confidenziali prima di oggi. I sentimenti di ufficio sono una cosa, ma qui siamo fuori d'ufficio». Assentì cordialmente. «Ier mattina mi è capitato di sentire casualmente che una certa persona non del tutto estranea alle colonie penali e non priva di beni mobili, non so proprio di chi si tratti, non nomineremo questa persona, non è necessario», dissi io. «Questa persona aveva destato un certo rumore in una certa parte del mondo dove un bel po' di gente va non sempre per soddisfare le proprie inclinazioni. E non del tutto indipendente da un contributo governativo. La detta persona aveva destato quel certo rumore per essere scomparsa senza che se ne sapesse più nulla. Per la qualcosa, continuò Wemmick, furono fatte delle congetture e formulate delle teorie. Sentii anche che voi, nel vostro alloggio al tempo, alla Garden Court, eravate stato posto sotto sorveglianza e potreste esserlo ancora. Da chi? Domandai. Non vorrei entrare in particolari, disse Wemmick in tono evasivo, che potrebbero contrastare con responsabilità d'ufficio. Non riferisco informazioni che mi siano state date. Sono semplicemente cose che ho udito. Nel dire così mi tolse di mano il forchettone e la salsiccia e preparò con garbo sopra un piccolo vassoio la prima colazione dell'anziano.